20 marzo noi siamo scesi in piazza in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico e siamo andati tramite un corteo che è partito dalla zona universitaria verso il teatro dove si stava tenendo questa inaugurazione. Ed è stato un corteo molto deciso, al punto che è riuscito a far portare dentro una delegazione che ha preso parola, parola che però è stata tolta dal rettore. Il rettore ha tolto di bocca il microfono da una nostra compagna, dimostrando per l'ennesima volta come la risposta al dissenso sia solamente censura. Al di fuori, il presidio, che in solidarietà è stato ripetutamente represso e manganellato dalle forze di polizia, dimostrando che anche per le piazze il dissenso viene represso tramite le manganellate. Quindi, a seguito di questa giornata, abbiamo deciso di occupare il rettorato, all'interno del quale adesso ci troviamo, e abbiamo deciso che sarà un'occupazione ad oltranza. Il nostro obiettivo, l'obiettivo di questa occupazione, è che il rettore ci dia un incontro pubblico nel quale noi vogliamo mettere il rettore davanti alle sue responsabilità riguardo le collaborazioni che l'Università di Bologna ha con enti e aziende israeliane ed enti e aziende che producono armi e che quindi rappresentano una complicità con il genocidio che in questo momento sta venendo portato avanti dall'esercito di occupazione israeliano sul popolo palestinese. Noi in questa occupazione continueremo a portare contenuti, continueremo a far diventare questo luogo il luogo da cui far partire le nostre posizioni e le nostre richieste. La fine di questa occupazione è in mano al rettore. Se il rettore accetta l'incontro pubblico, noi l'occupazione la sgomberiamo. Parlando invece dell'occupazione in sé, ho visto appunto che anche con la Mala, con altri collettivi ci sono delle cose in corso, quindi è un'occupazione aperta soprattutto a studenti e studentesse e a altri collettivi. È un'occupazione aperta a chiunque condivida con noi le posizioni fondamentali su quella che è la causa palestinese, quindi il supporto alla resistenza e soprattutto all'antisionismo, perché oggi per noi è impensabile pensare di processare la resistenza e di condannare la resistenza. Per noi la resistenza non si condanna, la resistenza si sostiene.